Allora, qui siamo all'incrocio tra via Edmondo De Amicis, che con la Resistenza non c'entra un fico secco, e Gastone Rossi, che invece è un combattente antifascista morto il 3 di settembre 1944. Una caratteristica delle storie che racconteremo durante questa passeggiata, della maggior parte delle storie che racconteremo, è che tutte quante hanno a che fare con il settembre, e d'altra parte siamo in settembre, quindi non poteva che essere così. Gastone Rossi era nato nel 1928 a Marzabotto, però lavorava a Bologna come operaio, e lavorava in città anche suo fratello più grande, che si chiamava Giovanni Rossi, detto Gianni. Il padre dei due fratelli Rossi era stato in galera, era uno di quelli che veniva portato in prigione quando a Bologna o nei dintorni c'era una qualche grossa manifestazione del regime fascista, perché era uno di quelli che durante quelle manifestazioni poteva fare qualcosa di poco gradito al regime. Per esempio, quando Adolf Hitler venne in visita in Italia, il padre di Gastone e Giovanni Rossi finì in prigione così preventivamente per una settimana. A quei tempi, se eri uno che dava fastidio, per il tempo in cui potevi dare fastidio ti mettevano in prigione oppure ti mandavano al confino, lontano dai posti dove potevi dar fastidio. Noi pensavamo che quel tempo fosse finito, invece quel tempo non è finito, perché ancora oggi, se dai fastidio in una città, ti impediscono di abitarci e ti dicono che non ci puoi più stare. Quindi la storia del padre di Gastone, Giovanni Rossi, ci ricorda anche questo, che certi metodi per reprimere chi dissente, chi resiste, chi non ha le stesse idee da chi sta al potere, non sono poi di molto cambiati. Gastone Rossi, quindi, se avete fatto i conti nel frattempo, se era nato nel 1928, quando si cominciò ad organizzare la Resistenza, cioè storicamente dopo l'8 settembre del 43, quando l'Italia firmò l'armistizio con gli alleati e si divise in due parti, se avete fatto i conti vuol dire che Gastone Rossi, in quel settembre del 43, aveva 15 anni. 15 anni. Quindi era molto giovane, anzi si disse che era uno dei tra i più giovani partigiani italiani. Perché Gastone, siccome suo fratello Giovanni, insieme ad altri due, uno lo incontreremo più avanti, si chiamava Mario Musolesi e venne soprannominato Lupo, e un altro si chiamava Olindo Sammarchi, non lo troverete qui perché poi fece il salto del fosso e passò dall'altra parte. Questi tre, dalle parti di Monzuno, a Vado in particolare, un paesino nel comune di Monzuno, avevano deciso di organizzare una formazione partigiana che si opponesse ai nazifascisti, in particolare in una zona strategica molto importante, perché Monzuno, Marzabotto, Vado, Sasso Marconi, Montesole sono zone che si trovano lungo la ferrovia direttissima, che allora, oggi un po' meno perché hanno deciso di bucare le montagne e di farne un'altra, però allora era il collegamento più importante tra l'Italia centrale e l'Italia settentrionale, e quindi da lì passavano convogli armati, convogli di soldati, e loro avevano capito che casa loro, perché loro lì ci abitavano, erano gente del posto, avevano capito che casa loro era un punto strategico dove attaccare i nazifascisti nei loro spostamenti e nei trasporti di truppe e munizioni. Quindi Gastone, che stava a Bologna, cominciò a fare da collegamento tra Bologna e la zona di Marzabotto, Vado, Monzuno, Sasso Marconi, Montesole, portando soprattutto delle armi. Porta le armi un giorno, porta le armi un altro giorno. Gastone a un certo punto chiese a suo fratello, domandò a suo fratello se invece di portare sempre soltanto armi non poteva cominciarle anche ad usare e a entrare nella brigata. Gianni Rossi, Giovanni, il fratello di Gastone, era diventato il vice comandante della brigata Stella Rossa Lupo, la brigata partigiana che si costituì nella zona di Montesole. E quindi Gastone chiese a suo fratello Gianni di poter entrare in brigata. Lui se ne stava comodo qua a Bologna, comodo per modo di dire, però comunque aveva un lavoro, faceva l'operaio, stava in casa dei genitori, aveva 15 anni e non era neanche minacciato dall'idea di dover diventare un militare della Repubblica Fascista di Salò, quindi non sarebbe stato chiamato alle armi. Tuttavia volle andare in brigata. Andare in brigata voleva dire stare nei boschi, dormire in condizioni non proprio comode e ovviamente combattere. E Gastone Rossi cominciò a combattere. Il 3 settembre del 1944, manca meno di un mese al grande rastrellamento da parte dei nazifascisti che portò all'eccidio di Montesole. Gastone Rossi, quel 3 settembre, stava mettendo a posto delle armi, le aveva trasportate tante volte, aveva imparato a usarle, aveva imparato a combattere con quelle armi, aveva imparato anche a pulirle, a sistemarle, però l'incidente può sempre capitare e fu proprio un incidente mentre sistemava le armi della brigata, partì un colpo, una delle armi era carica e Gastone non lo sapeva, non se n'era accorto, non lo aveva capito, partì un colpo e quel colpo uccise Gastone Rossi. Aveva soltanto 16 anni. La brigata fece un comunicato al CUMER, il comando unificato delle varie formazioni partigiane, ricordando Gastone Rossi e ricordando che mentre finiva la sua vita, pare le sue ultime parole fossero state che gli dispiaceva essere morto così, che di morire l'aveva messo in conto, che quando combatti una guerra può capitare che tu muoia, però che almeno avrebbe voluto combattere sparando contro i suoi nemici, contro i nemici della libertà, e invece gli dispiaceva di essere morto in quel modo. La medaglia d'oro che gli diedero in ricordo, sapete, c'è questa onorificenza, no? Che viene conferita per particolari motivi di coraggio a chi ha combattuto. Nella motivazione per il conferimento della medaglia d'oro a Gastone Rossi si dice che morì perché si era accorto durante un combattimento che una mitragliatrice tedesca falcidiava i suoi compagni, i partigiani, e dunque per snidarla si era lanciato all'assalto armato di bombe a mano e per gettarle contro la postazione nemica era stato colpito a morte. Ovviamente c'è una bella differenza tra le due cose. Questa differenza fece poi nel dopoguerra nascere dei sospetti. Vennero fuori degli pseudo storici come Giorgio Pisanò, un tizio che, se non lo conoscete, insomma, non vi manca granché, che cominciò a scrivere che Gastone Rossi faceva parte di quel novero, di quel numero, di quella schiera di partigiani che erano stati uccisi dai partigiani stessi per motivi di liti, perché si litigava dentro alla brigata e quindi si erano sparati tra di loro. E poi avevano insabbiato tutto con questa motivazione per la medaglia d'oro. Il che effettivamente, in alcuni casi, almeno in un caso che mi è noto, successe, il caso del partigiano Facio, ma non vi sto a raccontare qui la storia, ma nel caso di Gastone Rossi no. Io non ho scoperto, e quindi diciamo ci lasciamo con questo supplemento di indagine da fare, che cosa motivò il cambio di giustificazione per la medaglia d'oro al valor militare. Penso che forse si volesse appunto onorare la memoria di un ragazzo morto a 16 anni che diceva: mi sarebbe tanto piaciuto morire combattendo i miei nemici, invece porca vacca muoio perché è partito un colpo da una pistola mentre la pulivo. Forse fu per questo. Fatto sta che a noi sinceramente delle medaglie d'oro al valor militare ci frega molto poco, almeno a me frega molto poco, e soprattutto mi frega molto poco di come uno è morto, tutta questa attenzione a come uno muore. Chi se ne frega di come uno è morto? Io dico, quello che è importante è come uno ha vissuto. E Gastone Rossi aveva vissuto da partigiano, da resistente, da combattente, quindi che sia morto perché un colpo è partito per caso o che sia morto in un altro modo, tutto sommato non ci interessa molto. Forse per un colpo partito per caso la medaglia d'oro al valor militare non gliel'avrebbero conferita. Magari alla sua mamma faceva piacere ricordarlo con una medaglia d'oro sul petto, e allora perché no? Ma a noi delle medaglie interessa poco. Questa era la storia di Gastone Rossi.